Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Veicoli elettrici, veicoli a guida autonoma sono i due più importanti filoni che segnano lo sviluppo tecnologico del mondo dell'automobile. Questa sera vogliamo riflettere attraverso un esempio concreto su come questi due trend potrebbero sconvolgere il design delle automobili del futuro. Oggi questo processo ancora non si vede, con rarissime eccezioni. L'auto elettrica è ancora, diciamo così, un'automobile tradizionale elettrificata, dove l'architettura, i materiali, il design rimangono di base, diciamo così, gli stessi dell'auto a combustione interna. Allora proviamo invece a spingere l'acceleratore dell'innovazione e vediamo come, per esempio, gli pneumatici delle self-driving car del futuro, rigorosamente elettriche, potrebbero benissimo essere delle sfere. Buonasera Luca Crepaccioli, General Manager di Goodyear Southern Europe. Buonasera. Eccoci qua. Allora, questi Eagle 360, questi pneumatici futuribili, siamo assolutamente in una fase sperimentale per il momento, però appunto potrebbero stravolgere il design dei veicoli e anche il loro comportamento su strada. Allora, immaginiamo intanto una sfera di 50-60 cm di diametro ricoperta da mescola di pneumatici, che poi è la vostra specialità. Allora, ecco, spieghiamo intanto un po' come funziona la trasmissione. Qui non è che la ruota è imbullonata, no? Partiamo da qui. Goodyear Eagle 360 è una sfera collegata all'auto attraverso levitazione magnetica, realizzata con stampa 3D proprio per le esigenze dei veicoli con guida autonoma. Ok, cosa c'è dentro questa sfera? All'interno della sfera c'è uno strato diamagnetico che genera un campo magnetico intorno al pneumatico che lo collega all'auto. Ed è un campo magnetico repulsivo, così ci galleggia sopra l'auto. Esattamente, l'auto ci galleggia sopra, ne consente la levitazione e all'interno dell'auto, della sfera, è presente un motore a batteria alimentata proprio dal movimento del pneumatico. Alimentata dal movimento del pneumatico, ok, d'accordo. E quindi sia la spinta che il galleggiamento avviene attraverso questi campi magnetici, questo scambio di forza attraverso i campi magnetici. Non ci sono più le sospensioni, non c'è più il differenziale, non c'è più uno sterzo, non c'è più una trasmissione meccanica, una roba bella diversa dalle attuali. Ecco, proviamo a immaginare, a vedere che cosa succede, come cambia il comportamento su strada del veicolo. Beh, il comportamento su strada del veicolo cambia in maniera significativa. Sappiamo benissimo che generalmente oggi con l'auto si può andare avanti e dietro e poi si può in qualche modo curvare a destra e a sinistra. Con una sfera al posto di un pneumatico ci si può ipoteticamente spostare in tutte le direzioni. Immaginiamo un sorpasso. Se dobbiamo fare un sorpasso dovremmo curvare oggi leggermente a sinistra e poi rientrare a destra. Con un pneumatico a sfera ci potremmo spostare anche in maniera orizzontale e trasversale. Questo vale sia in caso di sorpasso, ma anche in caso dei parcheggi. Sappiamo che negli smart cities lo spazio diventerà una risorsa scarsa e le auto dovranno cavarsela in spazi stretti. E quindi quest'auto naturalmente può entrare lateralmente con degli pneumatici sferici nel parcheggio, invece di fare manovre più complicate. Ecco, tra l'altro, immaginando, sempre tornando all'esempio del sorpasso di prima, le forze a bordo che avverte la persona che si trova a bordo di questo veicolo sono un po' diverse, no? E c'è qualche vantaggio? Ma il vantaggio è sicuramente quello, innanzitutto, di aumentare la sicurezza e poi di addolcire i movimenti. Da uno studio fatto dell'Università del Michigan, dal 6 al 12% degli adulti soffriranno di mal d'auto con l'utilizzo delle auto a guida autonome. E la connessione levitazione magnetica di questo pneumatico ne ridurrà le vibrazioni e aumenterà il comfort. Aumenterà il comfort proprio perché si sentiranno meno anche queste spinte laterali che ci sono. Ecco, un'altra caratteristica di questo vostro studio è il fatto che immaginate un domani di stampare con una stampante 3D la mescola sullo pneumatico, che abbiamo detto in realtà contiene anche un motore, contiene anche una batteria, ben più che uno pneumatico a questo punto. Perché questa scelta della stampa 3D? Non si potevano appiccicare due copertoni semisferici? No? La stampa in 3D ha due benefici. Il primo, che ne facilita la sostituzione. Si cambia solo il battistrada, la sfera resta di proprietà insieme al veicolo. La seconda è la personalizzazione in funzione delle abitudini di guida, ma anche la zona geografica, quindi si possono stampare con la stampante 3D dei battistrada adatti a climi rigidi, adatti alla neve, ma adatti anche a situazioni di clima caldo e quindi di asfalto asciutto. Va bene, grazie, grazie Luca Crepaccioli, General Manager di Goodyear Southern Europe. Arrivederci a tutti gli ascoltatori. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani.